con Federica Graziani, una delle curatrici dell'evento A ciascuno piace l'altro a Roma, città dell'altra economia, 20 e 21 marzo 2019. Federica, ben trovata. Ci Ben trovati, grazie dell'invito. racconti? Festival, appunto, a ciascuno piace l'altro, è inserito in realtà in una intera settimana. Questa settimana si chiama Settimana di Azione contro il Razzismo e comprende il 21 marzo, perché il 21 marzo è la giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale. Una ricorrenza che è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 1996, che cade proprio il 21 marzo appunto, e ricorda il massacro di Sharpeville del 1960, diciamo uno dei momenti più sanguinosi della storia dell'apartheid in Sudafrica, in cui 300 poliziotti bianchi spararono su alcuni manifestanti, ne uccisero 69, ne ferirono 180. Quella manifestazione era una delle manifestazioni contro quella che viene detta Parflota, era questo ordine, diciamo, governativo. Perché i neri, appunto, sudafricani, qualora passassero nelle zone riservate ai bianchi, dovessero esibire un lasciapassare. Sì. E appunto, quindi, in questa giornata è stata poi istituita come giornata contro il razzismo, per dirla brevemente, e viene commemorata in una serie di paesi. In Italia se ne prende appunto carico questo ufficio presso il quale lavoro, che si chiama appunto Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Gli eventi quindi di questa settimana sono diversi. Noi apriamo la settimana oggi nella sede dell'UNAR, che è al centro di Roma, e con un evento che si chiama Testimoni, che vede la presenza, diciamo, delle interviste in realtà che terrà Marino Sinibaldi a alcuni personaggi, tra cui Roberto Piperno, che è stato vittima di un campo di concentramento. Poi ci saranno gli Spinelli, che sono una famiglia di Lanciano in Abruzzo, Rom, e verranno tre generazioni di Spinelli a raccontare tre diverse esperienze, diciamo, di vita proprio. E poi abbiamo un concerto che chiude questa prima giornata dei Braccianti di Cerignola, che sono invece un coro appunto che è istituito in un territorio che è il territorio campano, in cui appunto si raccolgono questi lavoratori del settore agricolo. E poi appunto arriviamo al festival. Il festival si svolgerà il 20 e il 21, quindi mercoledì e giovedì, come hai detto, presso la città dell'alta economia. Il programma è particolarmente ricco, diciamo, io non entro nei dettagli perché Certo. è davvero articolato. La mattina ci sono delle attività previste per la scuola, quindi per studenti di istituti superiori, invece il pomeriggio è aperto al pubblico, quindi l'invito è a raggiungerci nel pomeriggio di mercoledì e giovedì 20 e 21 marzo prossimi. L'idea che anima questo festival è l'idea di restituire una diversa, del tutto diversa immagine della presenza straniera in Italia. La presenza straniera in Italia, un po' per il momento politico, ma non solo per questo, ha letteralmente un deficit di attenzione. Quindi noi abbiamo chiamato una serie di persone che lavorano nella musica, nella scrittura, nell'arte, nella cultura in senso lato, e che già sono parte della produzione culturale, diciamo, italiana, quindi già la garantiscono. Le tavole rotonde appunto sono veramente, veramente tante, ci sono diversi scrittori, ci sono tavoli di storia. La sera della prima giornata ci sarà uno spettacolo teatrale che si chiama Albania casa mia, di un ragazzo originario di Valona, che si chiama Alexandros Memetai. E invece la seconda serata sarà dedicata a dei concerti, aprirà questo momento musicale il Quadracoro, che è il coro di un quartiere romano che si chiama il Quadraro, e a seguire ci sarà il concerto della piccola orchestra di Tortigna Sara. Ultimo evento, diciamo, di questa lunghissima settimana sarà il 22 marzo, in cui invece c'è un incontro calcistico, una squadra di calcio, una partita di calcio fra due squadre, la Liberi Nantes e la Monte Spaccato Savoia. La Liberi Nantes è abbastanza celebre a Roma, è un'associazione sportiva che garantisce l'accesso allo Sparta a rifugiati di richiedenti asilo, e invece il Monte Spaccato Savoia è una società, diciamo, di calcio dilettantistica, che è nata in un territorio molto fragile della capitale, intorno alla quale ruotano quasi 600 ragazzi. E questo avverrà il 22 marzo alle 17:30 nel campo di calcio della Romulea, diciamo a San Giovanni, sempre a Roma. Ecco. Questo è l'insieme degli eventi. Per saperne di più nel dettaglio, ci lasci riferimenti web? Saperne sì, di più nel dettaglio ci sono innanzitutto c'è una pagina Facebook dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, che ha questa nominazione appunto, e su quella pagina ci sono i diversi eventi, appunto con il calendario, la possibilità di iscriversi alle diverse attività. E poi c'è un sito che è www.unar.it, che raccoglie invece il programma, diciamo, nei diversi formati, quindi anche in PDF, per chi non è sui social media. E allora ricordiamo il festival A ciascuno piace l'altro, a Roma, città dell'altra economia, 20 e 21 marzo 2019. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Federica Graziani. Un abbraccio in bocca al lupo e a presto, Federica. Grazie mille. Crepi, grazie mille.